Patricio! Don Marie! Attenzione, Patricio! Attenzione, Gian Maria! Ecco, buonasera! Buonasera anche a lui! Come si va, come si va? Sempre a piedi, sempre a piedi! Sempre a piedi! Non ti fanno male i piedi! Oh, sono tutto là di camminelli! È un po' come la bicicletta, ma ho fatto un giro tu mangiare in bicicletta! Dove che si dà al centro! Hai fatto bene, eh. Allora hai camminato oggi, che quanti chilometri hai fatto? Guarda, tra bicicletta e camminare da piedi, minimo ho fatto una sessantina di chilometri. Sei tanta, all'anima, a te lo sei stracco. Oh, tu fino vai. Sì, confisco, è tutto tanto. Grazie a te sei riuscito a camminare, perché io no. Io mi sto qua. Un attimino, eccoci qua. Come la modulazione, la radio? Fa un passaggio più lungo. Guarda, vedi, se la abbassa ancora. Sì. Poi a noi siamo ancora la briccia. Allora va bene, va. Ah, va bene. Sì, ma se non salda un pochino. A voglia. È un bombo. Va tutto bene, tranquillo. Ehi, vabbè. Andate. Bisogna ponerle in moto, brutti. Bisogna farle funzionare, sto. Bisogna farle funzionare. Però noi siamo un po' poltroni. Sono la sera, invece bisogna accedere anche la mattina. Purtroppo la mattina sono occupato. Almeno a mezzogiorno in poi, fino alla una, va. Forse domani, gli arrivo visto oggi. Se potevo andare a passare la visita, poi bisogna vedere quanto ci sto fuori. Io quando sono a casa c'è paziente, uno e l'altro. Anche se non c'è nessuno, faccio quello che devo fare, però c'è paziente, capito? Scendo in magazzino, accendo quello del magazzino, salvo che non scendo giù a farmi una passeggiatina dentro il cortile. Andiamo. Va benissimo. Allora, tu vado a metti con pezzetto. Chi dà ragione? Noi andiamo sempre bene. Picca va bene. A voi. Il cammino da quanto lo guardi, il Giaghiddo. Ah, signor Bacchigio, ne ho inteso, no? No, è anche se l'ha preso, non ho sentito nessuno. Ogni tanto usando qualche colpo di importante, cioè sul PMR, però non parla nessuno. Però io sto ascoltando io, capito? Vabbè. Allora, io ce l'ho acceso dalle 5:30, ce l'avevo l'altro acceso, però dopo ho acceso questo qua. Stavo facendo cosa? Ha già finito? Stavo a me boge, diciamo, io, sono uno, se è indaffarato e gli ho un'altra cosa, capito? No, io ho acceso che ero le 5:30. Le 5:30 ho acceso. Anche prima, mi sembra. Però stavo guardando la TV. Ripeto, sentivo ogni tanto un colpo di importanza e basta. Però siamo guardando la TV, capito? Ho chiamato un paio di volte, ma non mi ha risposto nessuno. E allora vabbè, se qualcuno già mi chiama. Io ti ho sentito chiamare, però se mi mettevo qua non riuscivo a finire, sempre da che ero bene, quindi l'ho finito, forse già ho detto tutto già. Sento, quando c'è da fare in la regione, capito? E oppure certe volte mi chiamano e vai giù e portami l'acqua e fammi questo e fammi quasi. Mi devo assentare per forza, capito? Così che obbligatamente certe volte magari mi chiamano e io non posso rispondere, però cosa ci vuoi fare? Però i doveri prima di cose, prima di tutto. Tu. Sì, a me se non mi chiama il moglie di andare a pigliare. Vabbè, ma tu magari ti chiama perché devi andare in macchina a prendere tua moglie. A me mi chiamano per dire vai, scendi giù, prendimi l'acqua, vai giù e prendimi il latte, vai giù e prendimi il ghiaccio, vai giù e prendimi il latte, non c'ho caffè e parenti. Oppure mi chiama che c'è qualche cosa da aiutarla qua. E insomma, il movimento sempre, dai. No. Almeno ci muoviamo, se no hai capisato pure già per di farti male, ragazzi. A me è pugiato un uccellino che mangiamo e non è nato di un uccellino. Dai, minori, hanno ricevuto da pugiato. Non ho capito, scusa, ma ripeti. Ho detto, un uccellino della bicicletta, già è stretto e piccolo. Hanno ricevuto da pugiato. Ah, venuto, è venuto a vedere la mia, ma non ne do più, no, sto per venderla, però non ne do più, così che me la lascio, vai, tanto chi dà ragione, lavori di bada, lavori, capito, così che di bada non ne do, qua continua a farla chiedi, anche se non la usa che se ne frega, ma non ne do, capito, così che adesso ho deciso che non ne vendo più, dai. Grazie, vedete ogni tanto quando è bello e coso ti fai un giretto e via. Infatti, allora, ma attacca a Borabiglio, ti faccio un giretto e dopo se la muovo con un rapporto. Così che infatti ho deciso di non venderne più. Ma le ragazze vuole usare un computer che aveva messo il computer, ma non li mogo, ne faccio cavare che non li mogo, non la do con più, ecco, me la lascio. Un po', almeno te la usi, quando ne è buia, è bel tempo, e te la usi, e fai bene. Appena fa comincia a fare il tempo bello, ho qualche giornata bella, almeno qualche chilometro già lo faccio qua dietro, però non è che mi allontano, no? Tanto per fare movimento alle gambe, capito? Solo per altro. Ma se posso io, allenamento, sempre meglio tenersi sempre in forma, infatti domani voglio vedere cosa mi dici. E allora, così che già fa bene a fare movimento, a dirgli già fa bene. E io dice no, se di così non posso fare. Ma che campagna sto scendendo, perché il tempo è brutto. Già parecchi giorni non ci scendo, domani piove, a quanto ha detto, così che quando ha fatto qualche serata bella di sera scendo, la mattina no, perché la mattina è tutto bagnato, per cui non lo conviene, mentre la mattina invece un po' asciuga e già si può scendere, dai. Infatti, ogni tanto bisogna scendersi per vedere come sta. E vabbè, adesso no. Io ho visto le previsioni qua, di Rai 2, ha messo nuvoloso, ha messo, chissà, non ne sarà che tutta da deba. Io alle 2 ho visto che ha messo acqua, da voi, in certi dice che mette acqua, in certi dice di no. Ma le previsioni dovrebbero essere tutti uguali o no? Chi ce l'ha, chi mette acqua, chi no, che è nuvoloso, si non prende nulla. La rimane ha potuto e ha fatto mangiano e non l'ha fatto, ha fatto una bella lì. Adesso l'ha messa di notte, chissà. Si fa di notte, siamo dentro casa e per cui non ci bagna nulla. Ebbero di giorno, salvo che non deve uscire a qualche posto a fare qualche commissione. Ma cazzo abbiamo sette la baracca presa. Vabbè. Va benissimo così, va benissimo. Aspetta che faccio una chiamata al signor Bacchiglio. Attenzione al signor Bacchiglio. Ha detto che no. Anche Bacchiglio si è più affaratto, che ma hai sentito ieri sera. Guarda è affaratto uno. Cosa vuoi fare? Prima davvero sempre piacere, ci torniamo a to, sempre lì, ormai no, non è più come prima, cazzo a fare anche giornate intere, e anche nottate intere, cazzo, se mai mai, cazzo, cazzo, c'è una roba la china, andare a travagliare un mazzaro, cazzo, lui sono giù messo, cazzo, però era in voga del baracchino, per cui a fare collegamento con Gianni Gallo Spremero, ci andavamo lì a lotte della giocca, cazzo, e facevamo i DX, lui c'aveva una terassima sulla 5, allora aveva la 500, cazzo, lui via che si va via, ragazzi, cazzo, uno vorrebbe trattare la macchina per i DX, oppure piazzavami la Grand Prix e farmi i DX, però altri tipi, là. Gian Mario, guarda che non ho fatto. Purtroppo io non faccio mai il sabato la notte da a Longo Romiatro Brommi, anche di domani dobbiamo andare a travagliare, dobbiamo vedo il gozo, no io la notte pensavo a dormire. Eppure lo facevamo noi, e Mario ne sapeva qualcosa, gatta, anche un Mario, gatta. Però con Mario la maggior parte uscivamo di giorno, il sabato e la domenica, se andavamo a i monti di Oasi, abbiamo due dubbili, lasciavami attaccarmi la Grand Prix e a chiacchierare e a far bidoni, e io via. Gli altri ne hanno fatto un po' che mi sono a noi, ma io ne avevo fatto il muro, infatti, io, cazzo, e altri tempi erano quelli, erano tutti altri tempi diversi, invece va a farli funzionare, siamo solo noi. Ma erano tempi belli, dai, erano tempi belli. Che il baracchino sembrava una cosa molto, e poi erano tutti amici, e qualche volta l'amico usciva anche a me, nemico, succedeva anche queste cose, però era bello, vai, era molto bello perché si chiacchierava, si trovavano degli amici e per cui si trovavamo il caffè insieme, insomma una bella chiacchierata e andando avanti, capito? Purtroppo sì, ma è un bel di voci, anche degli pugnali da portante, con 100, 500 watt. Già l'abbiamo combinato, dai, non abbiamo fatto di chiacchiere e per cui già ci siamo divertiti, dai. E quando ci facevano le serate e le partite, macellai con i cazzolai, oppure viceversa, o serate danzante, e insomma ci divertivamo, ecco, ci divertivamo, cazzo. e per cui mi ha rotto il goffo. Anche ce ne abbiamo fatto lì alla Orte del Goffo, e a ballare, certo. E cantate il pulso ad Alghero, a Udanzà, con amici di Alghero che ci invitavano, andavamo e si passava, però si facevano queste sere così, il sabato e la domenica, vai. Prima ho tutti gli altri tempi. Un bel niente di affarrata paro Varacchino, date così, da è però bravo. Purtroppo. Anche quello succedeva. Però grazie a Dio, io evitavo sempre. Quando vedevo una persona che non mi piaceva, lasciavo la parte, giravo e non ci parlavo, capito? E se no, perché se uno è ad attacco e peggio ancora, capito? Da una chiacchiera all'altra, una parola all'altra, magari si bisticciavano, però ho cercato sempre di evitare. E mi sembra che sia uno che hanno bisticciato poco, con poca gente, mi sembra uno o due, e basta. Perché anche avendo ragione mi ritiravo e lasciavo perdere tutto, capito? Quello sì, no, io la stessa cosa, a me quando mi dicevano cose, allora abbigliavo e insomma a ganare, me non andavo a ganare. Certe volte magari c'erano le parole che perché gli splatteri, cacca, non si riusciva a sopportare gli splatteri, capito? Uno voleva essere, uno mi fosse disastro, cacca, e o certe volte venivo dal canale vicino, tipo ci mettevo la posta, metterti la portante, basta lasciare cantare, girare il canale oppure si spegneva, però a bisticciare non conveniva mai, però molti bisticciavano, e alcuni già parlando, un bisogno la voce a loro. Un bel di voce. Veramente non che vicino dice cazzo mi sbattero, cosa stai usando? Ed era tranquillo, microfono da tavolo e apparato da 5 watt e dice non va più. Mi devo aspettare 10 minuti che hanno suonato. E sono qua Giovanni, io aspetto che mi chiami mia moglie. Cosa c'è signor Bacchi? Non va a vedere se ero lontano, sono andato a guardare il telefono. Prova. Prova che mi ascolta attraverso il suo segnale senza radio. Buonasera signor. Buonasera anche a lei. Prova a vedere. La radio sta uscendo bene, il segnale. No, prova a vedere adesso che ho staccato il coso. Sì, 9.30, sì, 9.30. Sì, a Ruggio Ghiacci, 9.30 più nulla. Che non venire di più di zitto. Sì, io come ti sto arrivando lì? Ma ti sei interrotto però. Il segnale c'era però la radio o no? Cosa è del successo? Secondo come tocchi si è tutto brum brum brum brum brum. Secondo me ha messo il DVD. Perché quello da tappo lo sto usando. Giù sì. Sì, è giù. E giù c'è proprio voi. Andiamo, cazzo. Secondo come si è nel bel buio si è gaddo o c'è andato freddo nel bel buio che maranno da buio. Infatti, mettendo dentro un'altra scatola in alluminio. Non solo che devo andare a comprare il banane, più le prese a pannello che mi servono, è l'interruttore. Fai come ho fatto io, ma se ho già stato dentro il sacco, ho già stato aggiungendo un'onda, ho già fatto un buco, ho buttato i banani e arrivederci. Non so, Bacchi, non lo so se ne ha di quella roba lì, ma penso di sì, è attrezzato di tutto, è attrezzato, penso che ce l'abbia. Prova a vedere. Ma quale stai dicendo, quello dietro Cesaraccio? Quello dietro la Polificio. Non lo so, boh, prova a vedere, Zinna, fa sicuro che ce l'abbia. No, non faccio salto, non posso su a una macchina anch'io vi a fare punirla in andare a marciapiede, più che altro. Se non andate anch'io vi abbiamo in andare a marciapiede. Sapeva la battaglia. Perché lì quasi sempre c'è... Di più uno si va a vedere a vedere a troppo gallo, ma d'inverno già si va a vedere. Che non c'è più qua. È meglio evitarli, un bel voci. È meglio evitarli. E un bel voci. È meglio il metro e si sta a fede a Dabuia anch'io. A me se vado a fede un metro a Dabuia. Ah, anche così si può fare. Può fare anche così, si andrà direttamente. Se ne sei neanche vicino. Sì, quello sì. Vabbè, sì, è gana di varo i fili. Ma un bel che io posso far camminare. Allora vicino al supermercato vi dà se va raggioso si va cammino e se lo cammino e se lo vedete come che lo compugno e poi ti fa cosciare di una solito o una dirigetta è sempre impegnato con lo bradillo è impegnato con lo bradillo tu che lo bradillo ah? Ma lo so boh ma non lo so molto più nulla. Ah, non penso che sia molto. No, so me l'aveva detto. Sto sentato 10 minuti. Da entrare subito adesso. Siamo boh, anche alla pincisi. Non lo giocano. Prima entrava, aveva manco BMR in prendo. E la senda a fare due voti. E poi c'è un pochino di pannazzari, le gnori, le gamberoni, le riuscia, tutto il carabò che ho preparato. Se no, non c'è tempo, e io già, e andavo se no, se non lo dici, non mangia, c'è anche il tuo momento, non mangia, invece c'è tutto pronto, tutto quello l'ho sistemato, ma io invece mangio. Sì, vabbè, va benissimo, signor Bacchi. Sì, siamo un po' con lei, vado a fare la mangia. Oh, l'unica cosa che non mi piace è ammazzendere, anche se no dopo non te ne mangio. Sì, non lo so, ammazzendere è unico. Infatti, a mangiare lo mangio, però quando so bene si ridi. Certo che andiamo bene. Cosa hai combinato oggi? Fra dove era io? Oh, facendo tutti. Oggi ho trovato l'Ulta. Proprio prima di quando sei veramente. Mi sono stato visto e non è riuscito con l'altro. Sono andato visto e mi sono stato visto la cosa. Ma ti hanno bene, ti hanno lei, ma non lo fare a tutti questi clienti qua. Adesso io sono un po' che non l'accendo la stufa, perché c'è il riscaldamento e la vedete che già si sta girando ancora. Ma c'è il riscaldamento, ma dove come fatto, sono indietro. Infatti, a luna, quando venne figliura, accendono lo gozzo, il climatizzatore in chili, in sala, e faccio un po' di gas, ma poi là alle 5 si accende il riscaldamento. Signor Bacchi, adesso sì, poco fa non so, ma avrebbe neanche schiacciato. Oh, ma hai abbassato il duccio. Ah, adesso stai uscendo bene, stai uscendo. Adesso sì, devo essere un momento ancora prima. E io non sono oscillato, andavo trattando con l'uomo, si oscilleggia. E quindi dicendo. Allora abbia umidità e biglia. Quando dopo lo metti prende umidità. Io ce li ho che funzionano bene, si stava andando benissimo. Sì, funzionano bene, se no, fuori la terra. Poi questo qui, non lo posso neanche usare il micro, mi ha messo il box e non uso il micro. Quale stai usando? Come quello che ho io? È quello che sto usando, è fratello. Penso che da un po' che non uso buzzelli. No, adesso sto facendo camminare, era fermo. Mi è stato camminare ogni tanto. Poi domani magari mi scendo da su e ci porto su questo e mi faccio camminare un po' con l'altro là. C'è anche la stessa marca. Andavi. Perché ho acceso questo, acceso? Ma devo farlo andare un po'. Sì, sì. Io ho bisogno di tutti i colori e tutte le qualità. Ma che male, capito? Tu mi dici che manca buio e finito, stai uscendo. Stai uscendo male, Bacchi. Uscendo male sto adesso? No, adesso no. Ma poco fa è a tratti. Allora, la batteria cosa sta andando? Quando si leva la batteria, volava per cecchio. Vabbè. Strano che se ne vada così in fretta la batteria. Se ce la fai io, ce la fai io la batteria qua. Da parecchio ce l'hai. Vabbè, anche se ce l'hai da parecchio, lo capirei, un anno e mezzo. Ah, ce l'ha un'estate, l'inizio d'estate. Un anno non c'è ancora. Dovrebbe durare parecchio, dovrebbe durare queste batterie. Sono due volte, sono presa. Perché ti sei abbassato? Sono una batteria abbassata. Ah, mi dice batterie. Ah. Però ci ho messo una di quelle ricaricabili, ci ho messo. È buono. Io ormai lo voglio dire, sono salite, non so che mi serve un buco. Sono il tiro, mi assicuro che avevo la mia quindicina, perché li mettevo la mia taglia per fuori. Non trovo più. Io quando si scarica la metto. aspetta a caricare e a rivederci. Ma chi? C'è uscito a tratti e poi nell'ultimo passaggio non si è uscito più. Questo è il cambio micro. Quindi adesso lo sto andando. Ah, va, sì. Prima è amplificato, adesso sei normale. Adesso è normale, io sono normale. Anda, via, anda. Adesso sì, che funzioni bene. O non si tappa, o è scarico, una delle due. Ma non penso che sia ossidata, sta a carica di teatro. Uno di lui, poi lo apro, poi faccio l'operazione, lo metto giù con l'operatoria e lo apro. Ehi, andiamo. Ma mi intervento poco, io sono al fatto, mi esce male, al ratto, sta lavando come lui. Allora, c'è l'operatoria, qui ha operato, e vediamo un po' quel male che ha. Mandato qualche messaggio. Non l'ha già baitato, sta giù il telefono Carighelli e che tenne che mi chiami la signora a banda a pigliarla, ma che tu bada adesso non è rientrata ancora a mia figliura. Ehi, sai che non mi chiamiava? Domani? Se non andiamo a pigliarla, no, no, basta, no. Ti barra a te, hai da barre, non sia lontano a farci da figli. Sei a Sant'Orsola, ma dici che non vive una piglia, lo vuoi. Non è passeggiata, non è passeggiata. Dice io me l'avevo fatto un video di voce a Pini, ma è da, ha detto che non li piace. Vabbè, ha ragione pure, buio, Le strade sono un po' di due giorni, lo so, quelle illuminate. Sì, ma chi no, che ha detto che io, se ne già cominciando a trovarsene un poco, però la città rimane, ha già avuto, che c'è il gozzo. Guardi che ci sono un 25 lampade e lampioni spenti. Quando è che fate manutenzione? O aspettate che esca nel giornale? Al giudizio. Sì, magari non guardi. No, e cazzo, se passi tu a base di sopra, ci sono una ventina di lampioni sudati. Cazzo, ha detto, ma era in chiesa, no, bosteggiato. Ha detto, ma scusate, cos'è che dovete fare? Una raccomandata vi dobbiamo fare per controllare tutti i lampioni. Cazzo, se c'è una parte di sopra quasi tutto spento. Su dei lampioni viene un'usura, sì, pensa un poco. Guarda, ma chi? Mi pare che il Gana non ha ne dice di travaglia, però quando ne manca lo travaglio, bisogna arrivederci. Però quando deve ne travagliare non travagliano. Si li paghi a travaglio, se non li paghi non travagliano. A quella che si ha fatto come privato. Se ne sciopero a fine momento. Ma so da settembre che non piglia ne lina e due prigi. Non piglia niente, poi una scarpa e ci sono gli importanti. così movilato da me, pensa un poco. Lì alla ferita già ho due assessore, ha detto ma qua manutenzione poco se ne vede, non dà da fare. Perché? Perché ci sono su 50 lampioni ce ne sono 30 spinti, ce ne sono. Oh, cosa aspettate? Che lo mettiamo in giornale? Fino a che non si diano i riscattori, le cose, le... Bah, non si chiamano, no, no, ma non me ne ammetto. Sì, ma a Befana non li vedi più, a chi si? Che a manutenzione gli hanno invasi nel bocco, sì. Boh. Io lo dico, boh, fa manutenzione, no? Che i vari cristiani, che devi brigare. L'erba già sono qua vicino che stanno tagliando, qua l'hanno fatta la settimana scorsa, l'hanno fatta. Come quello di manutenzione per l'erba già lo stanno facendo. Per i lampioni io che non li so fermi, me l'hanno detto da contare i garrini, ma di voce gli avvenne zombie. Ma sì, purtroppo cadevi va manutenzione, passa a dire, c'è a Baida e se ne andà. No, la passa tutto, però non vuoi sapere. Passa, però non vuoi sapere che li faccio il testo, perché non mi viene a portare, la provincia, non mi farà dire roba, non puoi fare cose, però. Perché si legge le insegne, non si può fare più nulla. Lasciati grande, 20 giorni fa venne a questa non pagina, oggi ha detto guardate che ce n'è uno che è spento, più di un anno è spento il lampione, se potete farlo accendere, sì, ci passa il camion, sì. Ha detto sì che ci passa il camion se lo volete far passare. Siamo entrati, era un acconto, ad abbo di un anno. Invece di chi c'è di Roma siamo diventati. Ah, mi sembra che noi siamo da un giornale e così farà a fare un po' di fotografie e ponerlo in giornale. Io tanto il giornalista mi ha detto, dice quando è pronto mi chiami e io scendo. Un attimo Bacchi, che devo rispondere al telefono. Oh Bacchi, ci sentiamo dopo, se fa in tempo. Se devo andare a prendere la signora. Vai, vai. fuori. Ebbene. Oh, signor Bacchiglio. Ehi. Ah, sei ancora lì, sì. No, sono Bacchiglio. Franco, sì. Caffa. Buonasera, stavo parlando con un Bacchiglio un quarto d'ora fa. Ti è salito? Ah, non lo so, boh, forse ha sciarrato. Sicuramente è chiuso. No, io ero su 10, ero con Claudio e Massimiliano. E adesso stavo un po' chiuso, ho guardato qua. E sono schiacciato. E andare là, non devi essere tutto. Sono entrato a babbaidare dal giornale, invece è finito. E andare, diciamo che perché... Ah, benissimo. Vabbè dai, io chiudo anche i miei giocamenti. Andare. Ci sentiamo fra le prossime, magari domani, boh. Ok, dai. Va benissimo, dai, ci sentiamo. Ciao, Tore. Alla prossima. Ok, ciao, Fra.